Il investimento del nostro gruppo in Cina è il più grande investimento italiano industriale degli ultimi 10 anni, fa parte di una politica di internazionalizzazione e di crescita nel mondo globale dell'acciaio del nostro gruppo, ma come giustamente sottolineato andiamo a fare pezzi di crescita aggiuntiva all'estero per inseguire nuovi mercati e nuovi spunti, fermo restando la nostra solida base in Italia, sia sotto un profilo produttivo che occupazionale. In che rapporto, cioè che dimensioni avrà questo stabilimento? Quanto produrrà per un paese che, lo ricordiamo, è il primo produttore e il primo consumatore al mondo di acciaio? Esattamente, noi infatti siamo andati con una certa ambizione, una certa dimensione, perché l'investimento, che compreso il circolante, ammonterà a 200 milioni di euro, siamo sostanzialmente quasi completato, infatti inaugureremo la prossima settimana. Questo investimento rappresenterà nell'ambito della produzione dei tubi una piccola frazione, ma nel segmento dei tubi di qualità e dei tubi di precisione andiamo a produrre il 20% del mercato cinese e comunque vorremmo essere una piattaforma per tutti i mercati del sud-est asiatico.